Così fio che balemi del gran Filippo al corno di sapienza ogni più cupo arcano. E giorno sorga al nero, già l'eretto ne sorga alto sentiero.